Allora ragazzi, buonasera a tutti, bentrovati. Questo è OGM, Oscurantisti Giuridicamente Malinformati, che questa sera inizia sotto i peggiori auspici perché i problemi tecnici Windows, se ce li può avere, ce li avrà. Io parlo sempre male di tutti i sistemi operativi, ma cavolo, Windows non si smentisce mai. Queste cose in 2 anni di dirette con il Mac non mi sono mai successe. Da quando ho spostato Spreaker Studio su ho interfacciato su Windows a Skype, succede una brutta cosa nuova ogni settimana. Va bene, però torniamo a noi. Io so, prima di iniziare con la sigla, che con noi uno dei nostri protagonisti, che è Francesco. Scusate se sentite i tuoni in lontananza, ma quelli non sono un asset, ce li dobbiamo tenere per forza. Dicevo, so che Francesco prima di cominciare voleva dire qualcosa, quindi io lascio la parola a lui. Buonasera, grazie per questo spazio. Volevo semplicemente dire che volevo parlarvi di una scommessa. Di una scommessa che ho perso. Questa scommessa però si riproponeva ogni anno da una decina d'anni a questa parte, e fino ad ora ho sempre avuto la fortuna di vincerla. Una scommessa che facevo sempre intorno all'estate con una persona, in cui si scommetteva sempre se o meno questa persona sarebbe arrivata a mangiarsi il panettone. Io insistevo sempre: no, secondo me tu magna, sta tranquillo che tu magna. Questa persona diceva: no, no, non arriva a mangiarmelo. Oh, quest'anno ci si è impegnata e ha vinto la scommessa lei. E c'è mancato poco, è una quarantina di giorni e la vincevo anch'io quest'anno, però no, m'ha fregato, ha tenuto duro. E mi ha fregato sto giro, quindi alla fine non si vinceva, non si perdeva niente, era solo la soddisfazione di aver vinto sta scommessa. E diciamo che 96 anni sono un bel po', quindi poteva anche arrivare il momento di vincerla sta scommessa, e c'è arrivata. Quindi non mi resta altro che dire: Teresa, va, insegna agli angeli a mangiare rote crist, perché effettivamente si mangiava rote crist mia nonna con il tuo unico canino che ti rimaneva, solo lei era capace. E questo era tutto. Poi insomma, anche un'altra cosa, però mentre c'è della gente che perde le scommesse a quasi 100 anni d'età, ci sono altri che soprattutto ieri arrivano a compiere la cifra rotonda di 8 decenni, cifra rotonda di 8 decenni, e questa persona diciamo che condivide metà del mio patrimonio genetico. In famiglia ci piace chiamarlo Attila, perché dove passa non nasce più un filo d'erba, anche se anche tendenze diciamo a piromani, diciamo, non in senso penale, però diciamo quando è possibile fare un falò, accendere tutto, bruciare tutta roba vecchia, quindi lo chiamiamo anche Nerone. E invece oggi, proprio tutti insieme, invece oggi c'è un'altra persona che invece c'ha appena un decennio e altri 2 anni, e proprio oggi li compie. E se nel passato avete visto un pochino i canali di archeologia informatica su YouTube, potete capire che anche se piuttosto giovane gli piacciono i giochi vecchi, cioè le avventure grafiche della Lucas. Quindi auguri anche a lei. E credo di aver finito col mio primo spazio, diciamo, privato in questa trasmissione, in cui ho invaso questa trasmissione, roba mia. E credo che potremmo passare con robe più allegri, anche se questo non è che erano particolarmente tristi, e si può andare qua a sigla. E io ovviamente rispondo alla richiesta. Ovviamente prima di questo, Francesco, ti siamo tutti vicini in questo momento. Mi dispiace di dover rompere la serenità di questo momento con la nostra sigla, ma lo faccio. Runtime Radio presenta OGM. Io non me ne capacito ogni volta, ragazzi, fatevelo dire. Proprio, cioè, ogni volta è come fosse la prima volta. Non so se è una cosa positiva. Voi che dite? Ti ricorda un po' del sessonale. Ogni volta è come se fosse la prima volta. E fa male uguale, lo so, per il tuo cuoricino fa male, è una cosa brutta. Però e la vasellina per queste cose non esiste. No, non esiste. Lascia. Stendiamo un velo pietroso e sdraiamoci ci sopra quando, mentre passa un carro armato. Peto veloso, un peto veloso. Un peto veloso. Qua non c'è Simone a darmi manfort, ma io sono pro questa nuova corrente di runtime, quindi però sono tra i pochi, siamo un nucleo piuttosto estremista su questo, però siamo belli, belli cazzuti, dai. Allora, detto questo, io faccio subito un ragionamento, perché si moltiplicano i riferimenti a quello che vi dite a runtime di notte, che poi sta diventando runtime di sera. Se continuate così, prometto che vi verrò a trovare anch'io, perché se l'orario si anticipa un pochino, forse riesco a trovare la forza di non sbadigliare e di venirvi a trovare. Ieri, o meglio sabato sera, quando ho capito che sareste andati in onda alle 22:30, ormai ero già un po' rimbambito. Se l'avessi saputo prima, magari mi sarei affacciato, però me lo riprometto. Ma sai che non lo sapevo neanche io, che ero bellamente sul cesso a fare quello per cui la trasmissione è diventata famosa. E tipo dopo 20 minuti che sono tornato al computer, ho detto: ma già eravate in linea? Sì, ma perché? Vabbè, dai, sono bei momenti. Il bello della sigla, così, no? La sigla, ma puzzette. Una volta l'ho fatta la sigla, una volta l'ho fatta e ho iniziato la diretta e ho acceso fanculo, mi trovo qua e ero col telefono, quindi ho aperto Skype dal telefono ed ero bellamente sul trono, non di spade. Perché ragazzi, diciamolo che se da una parte c'è la Discovery di Star Trek che è il motore a spore, noi a Runtime abbiamo il motore a score, però è un segreto che non volevamo rivelare in maniera così plateale, però a un certo punto tocca anche farlo. Adesso dovremmo distruggere tutta quanta Runtime e cancellare la linea temporale. Ma no, basta far finta di volerlo fare, poi nella prossima stagione rimettiamo al centro della scena il motore a score senza neanche spiegare perché e nessuno si lamenterà. Permettetemi di salutare chi ci ha già raggiunto in chat, in questo caso Peppe Rizzard e Pier G. Voglio dire a Peppe Rizzard che qui il problema non è che ci vuole un sysadmin serio, qui ci vorrebbero dei software scritti come si deve, perché veramente l'apocalisse che riesce a fare Virtual Cable in combutta con Skype e incrociato a Spreaker Studio, ragazzi, non ve lo potete immaginare. Soundflower per il Mac funziona uno spettacolo, lo installi, sta lì, non batte ciglio. La versione per l'equivalente per Windows crea 42.000 dispositivi virtuali, non sai mai qual è quello giusto e Dio non voglia si incastra sulla sessione di Spreaker Studio già lanciata. Non ci sono speranze di farlo ripartire, devi riavviare tutto quanto, cosa che basta, purtroppo abbiamo dovuto fare. Scacciafiga, tutto questo è scacciafiga, basta. Ma quale figa che sono settimane che non c'è nessuno di figa qua? Non si avvicinano perché sentono questi discorsi da distanza, lo fiutano proprio, quindi no. Parlare di cose più parrucchieri, parliamo di parrucchieri, non so, di unghie, non lo so, dobbiamo cercare di portare anche l'altra metà del cielo dalla nostra parte. Ma quella è la parte di lavoro che dovresti fare tu. Se tu sei il nostro Fonzi, tu sei il nostro catalizzatore di quote rosa. Non si può uscire, non si può fare nulla. Purtroppo sono qui in questa casa, chiuso da solo. A proposito, ma tu stai facendo il lockdown a casa Gualdi o... Cioè, cosa stai facendo in particolare? Ti stai dividendo tra la vecchia e la nuova casa o ti sei trasferito definitivamente? Diciamo che il 90% del tempo sto a casa nuova. Aha. Ho detto, vado a bagnare e prendo roba da... Ah, ho capito. Vai a portare un po' di Covid a casa vecchia e poi torni in isolamento. Ho capito. Prendo delle cose nuove in casa mia. Ho capito. Ragazzi, io stavo leggendo un commento di Cuciniere che però non ho capito bene. Dice: io vi ascolterei molto volentieri, ma sono obbligato ad ascoltare Sanremo, altrimenti mia figlia non mette il pigiama e non va a letto. Che vuol dire Sanremo? Cioè, non è a febbraio Sanremo? Si vede che c'ha la compilation di Sanremo e dorme con quella. Mio figlio dorme con le canzoni di Sesame Street, la sua con quelle di Sanremo. No, io mi auguro che... Ecco, dovete appunto sapere che qualcuno che non dorme invece. Per noi eretini, e qui Marco mi potrà aiutare, il riferimento a Sanremo fa sempre un po' paura. Che è successo a Sanremo? Non sfugge. Non a Sanremo. Chi è Sanremo, Marco? Chi è Sanremo? Come chi è Sanremo? Chi è Sanremo? Uno dei matti di Monterotondo. Vabbè, sono talmente tanti che ormai ho perso il conto, mi sono fermato al 35esimo. Ma Sanremo, che poi uno dei vari appellativi è particolare, va in giro con il suo Walkman, col suo Discman da 20 anni avanti e indietro per Monterotondo. Penso che dovresti aver capito a chi mi riferisco. Okay. Vabbè, ma io lo chiamo per nome. E come si chiama? Io ho sempre chiamato Sanremo. Non è Livio? Boh, non me lo ricordo. Sì, quello grosso, quello grosso. Sputtaniamo gente così a gratis. Esatto, esatto. Vabbè, ma non abbiamo fatto il cognome, non lo conosco neanche io quel cognome, per cui insomma. Potrebbe anche essere basta andare a vedere sulle liste elettorali e vedere se è morto e se ha votato. Ah no, questi sono gli Stati Uniti. Quello lo fanno gli Stati Uniti? No, vivo è vivo perché lo vediamo passeggiare in perituro da veramente da che ho memoria di vita a Monterotondo, ho memoria di lui. E comunque, vabbè, insomma, poi magari lo raccontiamo in un'altra occasione. Giustamente Pier G parlando di, in risposta alla domanda che facevo su Cucinieri e su Sanremo, dice probabilmente tutto dipende dal fatto che lo guarda in streaming su Internet Explorer. Potrebbe essere, magari sta guardando Sanremo 98 praticamente. Però vabbè, vabbè, che problema c'è, ragazzi? Oh, ragazzi, la serata è quest'anno vincono i Giallis, io non vale dire nulla, però no. Spoiler. No, non si può dire che vincono i Giallis, perché prima di vincere nessuno sapeva chi fossero i Giallis, quindi non potevi prevederne la vittoria. Ma io sto vedendo Sanremo adesso, quindi hanno appena cantato la loro canzone. Oh, cioè, ragazzi, ma mi ricordo però quella canzone dei Giallis, mi ricordo quella canzone dei Giallis, ma non ricordo, non mi dite negli ultimi 10 anni chi ha vinto e se c'è della gente. Non lo so, però lei cioè, che meritava spesso vincere, sui rotocalchi insomma. Rosa che trovo dal barbiere. E che combina, scusa, che combina? Non lo so, di solito è in bikini, ma va bene. Non è che leggo, guardo. Ma questo chi? La cantante dei Giallis? Sì. Non so neanche se la riconoscerei guardandola in foto, non so come si chiama. Aspetta. Ma perché? Lola qualcosa. Vuole ancora un po' di... Alessandra Drusian mi dice... Sì, può essere. Mi dice sì, Wikipedia, tra l'altro del 69, mazza, quindi la facevo anche un po' più giovane, con tutto il rispetto. Non so cosa faccia nella vita lei adesso, sinceramente. Comunque, vabbè. La casalinga, sicuramente, cosa vuoi che faccio? Ma aver vinto Sanremo non è già di per sé una professione. Esatto, cosa fai? Vinco Sanremo. Cosa hai fatto? Guadagno in maniera inopportuna diritti SIAE grazie al fatto che ho vinto Sanremo una volta nella vita, questo è il concetto. Ma potrebbe non succedere più, visto che la SIAE sta in profondo rosso, attenzione. Ma come, con tutti i soldi che riesce a spillare senza fare niente? Ha dichiarato oggi che sta veramente con le pezze al cu, come si diceva una volta. Ma perché? Ma perché vogliono battere cassa per avere qualcos'altro? Ricevono anche soldi per la tassa sull'equo compenso sui dispositivi informatici senza nessun motivo. Vabbè, Pier G, volevo dirti, dice Pizzito, Pizzi che sta facendo? Sta ancora festeggiando la sconfitta di Trump? In realtà questa sera Simone, che è provato dalla diretta di questa mattina di Buongiorno un cazzo, ha deciso di prendersi un lunedì sabbatico, quindi tornerà la prossima settimana. Forse dorme il sonno dei giusti. Il sonno dei giusti. Oh, noi invece siamo qui senza una scaletta di argomenti particolarmente ponderata oggi, stiamo andando un po' a braccio, però sicuramente il tema della puntata inevitabilmente, e qui ci deve oggi protagonista per mille motivi il nostro Francesco, il nostro lobby, è un suo conterrone, quindi lui ci dovrà un attimino aiutare a capire cosa è successo nella testolina del governatore della regione Campania Vincenzo De Luca negli ultimi giorni, perché se ne è uscito con degli exploit veramente imbarazzanti che andavano in contrasto con le sue stesse prosopopee di poche settimane fa. Cosa sta succedendo, Francesco? Secondo me è il berserk. Poi, sì, è avvenuto quel click nella sua testa che, come diceva la canzone dei I Don't Like Mondays, praticamente l'ha mandato in overload, praticamente. E soprattutto nell'ultima diretta di venerdì, che io non mi perdo mai le sue dirette, le ce l'ho sempre, o la vedo direttamente oppure comunque ce l'ho in background, mi piace comunque ascoltare le sue esternazioni, solo stavolta non ho potuto, cioè, fare altro, perché ogni volta era una sferzata continua contro questo e contro quest'altro, diciamo che era parecchio incacchiato della situazione, della divisione, diciamo, a pezze del nuovo piano, del nuovo DPCM, della divisione a pezze colorate dell'Italia, perché lui ha sempre dimostrato apertamente di essere favorevole a un lockdown nazionale, ma da almeno un mesetto e mezzo fa, ora che no, è diventato... proprio europeo, cioè non sì, no, mondiale yeah. proprio. Sì, però scusate, se da una parte, se da una parte diciamo così il fine giustifica i mezzi, no? Ha ottenuto, sì. Si è ottenuto quello che è il risultato relativo alla sua regione di competenza, quindi è arrivata la proclamazione della zona rossa in Campania, perché sappiamo che in Campania il grosso problema è il numero di posti letto in ospedale rispetto alla popolazione, che ha mandato in sofferenza l'infrastruttura, perché rispetto ad altre regioni ugualmente popolose a Napoli e in Campania in generale ci sono meno posti letto e meno posti letto di rianimazione, per cui era necessario nel suo territorio di competenza arrivare alla zona rossa ci si è arrivati. Quello che succede al di fuori dei confini regionali, lui in quanto governatore di quella regione non dovrebbe, a lui non dovrebbe interessare. Quindi perché a un certo punto l'aver ottenuto il risultato che bramava, cioè la zona rossa per la Campania, non è più un risultato voluto, ha praticamente fatto un ribaltone concettuale al punto da chiedere le dimissioni di un governo del quale lui in qualche modo è portato esponente, più che altro perché è eletto con il PD, che è il partito di governo insieme al Movimento 5 Stelle. Insomma, questo cambio di questo cambio d'atteggiamento, questa piroetta, questa inversione a U, da cosa può dipendere? Io ho un'idea un po' speculativa, me la sono anche fatta, però vorrei sentire le vostre idee. Tanto nella sua mente non oso entrarci, perché sarò trafitto da tante di quelle torture che nemmeno Dante le avrebbe profetizzate nella Divina Commedia, dici? Ci siamo persi Francesco. Sì, ho sentito un tipo uno zot. E Francesco probabilmente. Secondo me è stato De Luca che l'ha è fatto. È stato De Luca, infatti. Secondo me è stato lui. È stato un attimo. Sentite? Ecco, sì, spippiola con lo spinotto, perché probabilmente sì, infatti, si sente le assets nostro della sigla. Esatto. Sentite. Molto sì, lontano, sì, certo. Molto lontano, ma ti sentiamo. Ora? Sì, ora meglio. Ora sì. Ora meglio. Okay. Questa, pensavamo che fosse arrivata la maledizione di De Luca, così no, come un probabilmente è avvenuta la maledizione di De Luca. Bisognerebbe fare come Macbeth, che sapete, non la chiamano Macbeth, la chiamano The Scottish Play, il dramma, la tragedia scozzese. Lui bisogna chiamarlo il presidente della regione Campania, non mai chiamarlo direttamente. Un pochino come Frau Blücher pure, se sì. Appunto. Ci vuole, scusate, non abbiamo un asset specifico, però insomma, per questo mi spendo, voi lo sapete. Diciamo che questa versione, più che una versione AU, è stato un... l'ho letta più come un... cioè, ve lo stavo dicendo io, cioè, ma a che cacchio serve che facciamo le cose a pezzi, che le facciamo adesso? Io siamo stati i primi a voler chiudere le scuole, ci avete rotto il cazzo, ci avete pure preso per il culo. Siamo stati i primi a voler chiudere a chiamare un lockdown almeno nazionale, se non regionale, e ci avete riso in faccia. E mo ve ne venite, soprattutto da ridire con vari personaggi che diciamo hanno attaccato un pochino la situazione in Campania, hanno più che altro accusato lui di una... cioè, se sentite un pochino risentire, perché non solo lui voleva fare queste cose prima, però l'hanno fatta adesso e l'hanno accusato di una cattiva gestione, soprattutto partendo da Spadafora, quando ha parlato comunque dei suoi commenti sulla questione della partita Napoli-Juve, se non sbaglio. Partendo pure dal buon bibitaro Luigi Di Maio, che oramai è il suo punto forte, probabilmente le sue frecce. Lo capisco, insomma, chi non lo userebbe come punta spilli Di Maio, scusa. Quindi, sì, però tutto perché Di Maio ha detto, cavolo, è la mia terra. È una regione che non si governa con le battute, sto leggendo verbatim, ma non si governa fingendosi sceriffi, ma si governa decidendo, assumendosene la responsabilità. È quello che il governo sta facendo, interverrà nelle prossime ore perché la situazione è drammatica, perché aveva proposto comunque di mandare l'esercito a controllare al di fuori degli ospedali e altro. Quindi le sue esternazioni sono state tra le migliori, nonostante tutto. Con Di Maio è proprio il suo punto forte, con Di Maio riesce sempre a cacciare qualcosa di nuovo. Sì, sì, ma ripeto, in questo io non lo posso biasimare, praticamente gli scatena degli istinti che non può controllare, quindi E poi si è lamentato anche del presunto commissariamento, del commissariamento della campagna, cioè che se sarebbe continuato il commissariamento si sarebbe trovati con le pezze delle pezze al cupe peggio della Calabria, che verti in uno stato pietoserrimo a Calabria, povera Calabria, cioè noi si presta delle ironie a volte per dei personaggi succeduti, quei responsabili. Però attenzione, del attenzione, visto che ci stiamo, no? Perché prima c'era Cotticelli, che era quello che non sapeva. Poi sì, venuto, no, che aveva avuto un malore, che ha avuto un malore a causa della droga. Sì, forse è stato drogato. Sì, sì. Erano i massoni, l'hanno messo là, vogliono far Secondo me ha assunto troppo adrenocromo. Cioè, non vorrei. Sì, sotto al culo, troppo adrenocromo al culo. Sì. Poi ha succeduto. Come si chiama? Zuccarelli, Zuppice, come si chiama? Sempre quelli finisce. Zuccatelli, sì. Zuccatelli, sì. Zuccatelli. Che è stato, diciamo. Alla cronaca, perché praticamente qualche mese fa, ben dopo il lockdown, ancora diceva che le maschere erano fondamentalmente un orpello, qualcosa di inutile, perché per prendersi il virus bisognava stare a stretto contatto di lingua, insomma, comunque bisognava limonare per 15 minuti. No, quindi il piano ha fatto il suo piano, limonare meno di almeno per massimo 14 minuti e 59 secondi, non è piaciuto tanto. Però se poi pensate se Sting fosse vissuto in Calabria, ciao Sting, ce lo saremmo giocato da mo. Però adesso è stato messo, aspettate che trovo il nome del nuovo incaricato, che Gaudio. Gaudio, sì, che pare che sia un pregiudicato, una roba del genere. No, è soltanto sotto processo. Ancora sotto processo. Esatto. Una persona, non lo so, penso, non so se per corruzione, non so per che cosa. Cioè, ma tu che fai in una situazione del genere, dove veramente già due le ha dovuti silurare per manifesta una incompetenza e due non adeguatezza, ci metti uno che sta sotto processo. Allora devi andare a cercare. Sì, beh, oddio, infatti... o quella la rosa, diciamo, di candidati disponibili. Allora, c'è Gino Strada, ha detto: guarda, lo faccio io, vi prego, non lo voglio fare, ma lo faccio per togliervi le castagne bollenti dal culo. Lo faccio io. Ha fatto: no, tu fai il suo consigliere. Ah, bene, bene, bene, ottimo. Belle cose, complimenti. Comunque, per dovere di cronaca, stavo leggendo adesso che l'inchiesta che riguarda Gaudio è stata aperta dalla procura di Catania per l'ex rettore, non so se proprio dell'università di Catania, però da quello che leggo sostanzialmente si va verso l'archiviazione, quindi probabilmente la sua posizione è stata stralciata, insomma, da quello che leggo così per sommi capi, perché non ho letto l'articolo prima, probabilmente questa situazione in qualche modo starebbe rientrando. E poi è chiaro che, insomma, se fossi Gino Strada, io a un certo punto, come dire, comincerei a dire: vabbè, se è fatto tardi, e comincerei a andarmene se a casa a preparare Facebook, la cena. Hai iniziato a dirlo, in realtà. Sì, cioè, perché con questo andazzo, con tutto il rispetto per quando si cerca di coinvolgere figure della società civile importanti e integerrime come Gino Strada o altri, se lo si fa, lo si fa subito, lo si fa bene, ok, altrimenti appena si sente odore di speculazione è meglio farsi da parte, perché rovinarsi l'immagine che si è costruita con merito per decenni di sacrificio a causa di un governo di scappati di casa, forse è meglio evitare. Un po' come quando, non so se qualcuno si ricorda, quando si vociferà, prima che venisse scelto ed eletto Mattarella come Presidente della Repubblica, il Movimento 5 Stelle cercava di sparare dei nomi e se ne fecero tanti, tra cui Milena Gabanelli, forse lo stesso Gino Strada, eccetera. È chiaro che queste persone gli viene un brivido lungo la spina dorsale, secondo me, quando questi figuri li nominano, perché andare a mettere le mani in questi torbidi fatti, io non so proprio chi se la sentirebbe, appunto, da esponente della società civile con un curriculum cristallino. Chi il curriculum ce l'ha già opaco, chi se ne frega magari, ma quelli che invece fino ad oggi si sono distinti positivamente, perché dovrebbero andarsi a impelagare in situazioni nelle quali credo che non potrebbero mai dare un valore aggiunto, perché il sistema non glielo permette, diciamo la verità. Che tristezza. Che tristezza. No, invece stavo leggendo in chat, perché parlando di De Luca, voi vi ricordate, o forse se non ve lo ricordate ve lo ricordo io adesso, che se da una parte c'è un epico Vincenzo De Luca, c'è anche un più piccolino De Luca, che è il sindaco di Messina, che Peppe Rizzardo ogni tanto ci ricorda, che è Cateno De Luca. Allora io mi sto cominciando a preoccupare, perché da quello che dice Peppe stesso, se da una parte abbiamo Vincenzo che sta dando di matto, dall'altro pare che Cateno in qualche modo stranamente si stia un attimino stia ritornando un pochino su miti consigli e si stia un po' rinsavendo, così ci dice Peppe. Ma quindi qualcosa potrebbe essere successo, si sono invertiti i flussi, hanno fatto cortocircuito De Luca, chi lo sa, non lo so. Sarà una questione stagionale, forse. Boh, forse nelle stagioni fredde il De Luca mio conterroneo è più conterrone, è dice. Più in forza, diciamo. No, conterroneo. Conterroneo, ho sentito ci sono due versioni, tutte e due esatte, secondo me. Okay, possiamo chiamare la Treccani, è chiaro, Accademia della Crusca, e far verificare. Io ho il sospetto che sia come per i computer, cioè in alcuni casi più freddo è migliore la resa in termini di performance, in alcuni casi invece non so, probabilmente De Luca va a carbone, mentre invece Cateno De Luca è come un microprocessore, se abbassi la temperatura migliora il risultato. È più giovane, dai, quindi ci può stare. Hai mai visto gli exploit di Cateno? Quindi insomma, vabbè, l'età lì c'entra poco. Ma invece, a proposito di prestazioni, ragazzi, io non so se state seguendo gli annunci che si susseguono in questi ultimi giorni relativi alla quasi finita fase di sperimentazione di più di un vaccino. Ovviamente parliamo di quelli per il Covid, e non so se avete visto che il prossimo vaccino in ordine di annuncio, che è quello della casa farmaceutica americana Moderna, pare sarebbe arrivato ad un livello di efficacia del 94,5%, quindi superando anche il già buon 90% di quello della Pfizer. E quindi domani Putin dirà che loro ce n'hanno uno che funziona al 96%. Esatto, ora ho capito bene la dinamica. Ci sono meccanismi di funzionamento e di conservazione diversi. Questo di Moderna pare che non abbia bisogno di essere conservato a meno 70, meno 80. Insomma, tutta una serie di Putin non c'ha bisogno di essere conservato. Cioè, esatto. Non necessita conservazione. È in aerosol. Esatto, sì, assolutamente. Si assume per via rettale. Dico. Io ho capito che era stato solido. Non in aerosol. Solito per via dettagli. È contenuto dentro dei piccoli confetti rivestiti in piombo e viene assunto tramite un apposito erogatore con una canna molto corta e un grilletto. Non è un Full Metal Jacket, L'avevo visto. Allora, cioè, sì, perché c'è la versione quella con le micropolveri che stavano sperimentando, cioè, è tipo l'ipospray di Star Trek. Esatto. Cioè, sono polveri ultra sottili che vengono sparate attraverso la pelle e passa attraverso i pori. Questo invece è la versione fa bene la pelle, fa bene ai capelli, certo, se tu mangi bene meglio. Un solo, diciamo, invece di avere milioni di granuli pulviscolari, ne ha solo uno un pochino più grosso, anche questo che viene sparato attraverso la pelle, giusto? Esatto, però a velocità più alta con un apposito erogatore. Esatto. Anche quell'altro supera la velocità del suono, l'altro erogatore, penso anche questo, credo. Si sente infatti il bang quando lo allontani dalla pelle. No, ma sai qual è la cosa positiva? Che per come è strutturato questo nuovo vaccino e soprattutto il sistema di inoculazione, non è necessario che... inoculazione non si dice, queste parole in radio non si dovrebbero dire. Si prestano a molte interpretazioni. Però questo dato è importante, perché la superficie di inoculazione non deve essere specificamente l'avambraccio oppure la natica. Dove lo applichi funziona, questo anche sul cazzo. Esatto. Diciamocelo, cioè anche sul ma anche alla tempia, tempia, che so che è una procedura usata in laboratorio nella fase di sperimentazione molto spesso, ecco. Anche sublinguale. Diciamo che si può usare anche sul ginocchio, quello nel caso in cui non ci sia un'infezione non grave. Allora, esatto. Se non funziona sull'altro. Esatto. Nei casi più gravi, se proprio c'è bisogno di quello più forte, allora sul resto del corpo. Non a caso la campagna sarà una campagna vaccinale, quella che ci terrà in Russia. No, al di là del vaccino russo e delle sue curiose modalità di erogazione sovietiche, quando è venuta fuori la storia del vaccino di AstraZeneca con la necessità di essere tenuto a meno 80 gradi, si è accesa un attimo una lampadina. Io nella mia variegata carriera come amministratore di sistema sono stato anche in un'azienda che si occupa di logistica, all'interno della quale c'era un'altra azienda che si occupava di catena del freddo. Carmine, però una cosa te la dico io, sì. Cioè proprio perché ti sei accesa la lampadina e hai aperto il frigorifero, hai sbagliato sportello. Sì, no, quello lì, no, quello apri, si accende, chiudi, esatto. Aspetta. Occhio quando andate, non è che, per esempio, come diceva Raul Cremona, se di notte vi alzate, aprite la porta del bagno, la luce si accende da sola, pisciate, chiudete la porta e la luce si spegne, non è un nuovo dispositivo tecnologico, avete pisciato nel frigorifero. Al di là di Cremona, torno un attimo serio, siccome questa azienda si occupa di catena del freddo, tra l'altro c'è un nome estremamente specifico, si chiama meno 20, sono fatto due chiacchiere con un ex collega che si occupava esattamente di questo, l'ho sentito un attimino timoroso nel rispondermi e mi è sorto il dubbio che qualcuno a livello Croce Rossa o diciamo sanità pubblica abbia già cominciato a contattare le ditte private che lavorano esattamente in questo settore e a sondare il terreno per vedere se è possibile avere dei centri di stoccaggio perlomeno regionali nelle aziende che fanno questo lavoro. Boh, vediamo. Beh, io volevo provare a invitare il direttore in trasmissione. In realtà si parla, no, di anche, però non sono riuscito a contattarlo. Notavo che si parla intanto di un quantomeno un primo centro di stoccaggio a Fiumicino per la prima conservazione delle dosi che arriverebbero dall'estero, però probabilmente ha senso che questo tipo di luoghi con questo tipo di frigoriferi specifici vengano organizzati dove ci può essere un controllo un pochino più strutturale, il controllo dell'esercito piuttosto che dei servizi segreti, perché è chiaro che questo bottino di vaccini potrebbe diventare un bersaglio per moltissimi motivi, di conseguenza non credo che si possa fare riferimento ad aziende private solo sì, perché hanno il frigorifero adatto, serve una logistica difendibile. Aspetta, nel caso specifico è un'area di stoccaggio a meno 100 gradi grande quanto un campo da calcio e che comunque è stata già utilizzata in ambito sanitario per conservare io no, in realtà una tartaruga congelata là dentro una volta ce l'ho vista per conto dell'Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Biologia. Comunque ho questa strana sensazione che qualcosa si sta muovendo in questo senso. Tra l'altro c'è una notizia curiosa, io l'ho letta su, non mi ricordo se era su Repubblica o su Corriere, che i frigoriferi adatti a quel tipo di stoccaggio in Italia li fabbricano a Nusco, città nota per aver dato i natali a Ciriaco De Mita, il che ti fa pensare che la Prima Repubblica potrebbe salvarci il culo ancora una volta. Beh, il discorso secondo me non è la mancanza della tecnologia necessaria, quel è la campo da calcio con frigorifero mi dava de gondro, ma adesso mi correte tutti dietro per prendere è vivo Ciriaco. Dice Pier G, i meno 80 si raggiungano anche col ghiaccio secco, sì. Però ma lo devi mantenere, esatto, per periodi di tempo minimi, nel senso per esempio per lo spostamento o per la conservazione puntuale delle dosi prossime alla somministrazione, ma qui stiamo parlando di doverne stoccare quante mediamente, diciamo un paio di milioni alla volta contemporaneamente. Sparpagliamole su più centri logistici, però insomma capisci che una soluzione, stocchiamo direttamente le persone. Esatto. Facciamo prima, cioè mettiamo dentro un frigorifero e poi gli facciamo il vaccino direttamente dentro, cioè più semplice. No ragazzi, però una volta nella vita fatelo questo esperimento, io ci sono entrato in quell'area di stoccaggio. No, di entrare in quelle aree di stoccaggio. Non è che uno guardato. Prende e entra, tu avrai avuto anche l'opportunità. Sì, io avevo dei motivi per poterci entrare, che riguardavano una copertura wifi in quel caso, vi assicuro, sono entrato e improvvisamente mi è passata la sinusite. È stato un momento bellissimo, cioè, ho respirato improvvisamente, ero guarito, l'aria era leggermente secca, giusto? Sì. Vabbè, d'altra per parte, quanto tempo sei stato guarito? No, per 5 minuti, poi sono uscito e l'umidità di Bari mi ha dato la mazzata definitiva. Devo stare più tempo lì dentro, allora fatelo costruire a casa. Esatto, sono uscito e come si dice a Bari ho avuto il resto. Beh, però questa cosa mi fa quasi riflettere sulla premorte come terapia. La cura che poi è il metodo russo, cioè, fondamentalmente. No, no, togli pre in quello russo. Ragazzi, ma poi è passata sempre inosservata quella famosa notizia che abbiamo dato di rimbalzo settimana scorsa, poi mia colpa, non ho indagato perché ne avrei voluto parlare oggi, della storia che secondo qualcuno, qualche oppositore del regime, eccetera, eccetera, Putin sarebbe malato in maniera piuttosto seria. Qualcuno ha ipotizzato il morbo di Parkinson, qualcun altro ha rimbalzato credo anche il Alzheimer, tant'è che Putin potrebbe cedere il potere all'inizio dell'anno prossimo. Ora, visto che non se n'è più parlato, probabilmente era una, come dire, una mezza boiata. Però il dubbio, insomma, la mente intera. Però sai, se è quello che hanno detto, cioè il Parkinson può rimanere gestibile anche per diversi anni. Comunque, sì, fin quando non emergono anche dei problemi anche cognitivi, che a volte sono, possono essere anche successivi, è meglio se compaiono prima, diciamo che duri un po' di meno, se compaiono dopo il tempo comunque di tirare su un clone e via. Bisogna capire se chi ha ipotizzato questa patologia e questa diagnosi per Putin lo ha fatto sulla base di evidenze che noi non abbiamo potuto notare, di speranze insomma, sì. Per capire, magari è una patologia che in realtà è in progressione già da tempo ed è, sta per diventare non facilmente nascondibile, chi può dirlo? Non lo so, non se ne è più parlato. Oddio, è vero che è un po' che non si veda. Cioè, pare che stia facendo vita pubblica più, cioè meno spesso. È anche vero che in piena pandemia non è che. Certo. Insomma, credo che nessuno. Anche se lui è immune al Covid, dovremmo ricordarcelo. No, lui si è fatto lo Sputnik 5, 10, il 15. Si è fatto ho spiegato tutto pure il Parkinson. L'effetto collaterale. Come ricordiamo che nel bugiardino di lo Sputnik 2, Sputnik 5, lì come si chiama il vaccino russo, tra gli effetti collaterali c'è scritto Covid, quindi insomma potrebbe succedere. Quindi... Guardate, io non so esattamente come funzioni in Russia per la stesura dei bugiardini, ma come penso Lobby sappia perfettamente. Senza ini, sono bugiardi. Tu in quelli italiani, o in quelli europei, perché credo che sia una normativa poi tra l'altro applicata anche negli Stati Uniti, vengono riportati anche gli effetti collaterali non verificati ma semplicemente denunciati. Quindi tu ogni tanto trovi nei bugiardini dei fenomeni assolutamente inspiegabili, tipo morte per annegamento. Come cazzo è possibile? Cioè, come fai ad annegare dopo aver assunto un farmaco? Anche mi chiedo, effetto collaterale Covid? Cioè, qualcuno ti ha detto mi hanno vaccinato e ho preso il Covid? Sì, sì, quanti sono? Perché vuol dire che, sai, probabilmente non ti sta funzionando esattamente come ti aspettavi. Sì, qualche domanda me la farei pure io, sai come... No, però ci tengo a precisare che quella sull'effetto collaterale Covid è una mia battuta, no? Perché sennò poi potrebbe sembrare che fosse scritto davvero. Poi magari c'è scritto, però io... L'effetto collaterale è avvelenamento da piombo. Vabbè, ragazzi, può succedere. Violenta emorragia. Seguito da violenta emorragia. Polonio. Esplosione autoindotta dell'arteria femorale. Cose così... Come dire, combustione spontanea. Oppure il classico è più sottile, la ricina con tramite ombrellino. Tramite puntina d'ombrello, sai, quella è la tecnica che piace tanto anche a Pizzi, insomma, che sì. Intenso desiderio di lanciarsi dalle finestre dal terzo piano in su. Un giorno dovremmo scriverlo un bugiardino tipo. Sì. Invece, per esempio, chissà cosa sta succedendo nell'altra grande terra senza Covid, che è la Corea del Nord, perché anche da lì non stanno più arrivando tante notizie. Kim Jong non sta più apparendo in maniera prorompente e provocatoria. Intanto saluto Al 9000 che ci ha appena raggiunto, ciao Al, e non ha più fatto exploit militari, parate, eccetera. Quindi, insomma, non sappiamo cosa sta succedendo. Siamo tutti in apprensione, perché, insomma, qualche settimana fa di nuovo l'annuncio trionfante che in Corea del Nord Covid non ce n'è, che è anche verosimile come scenario. L'ha detto Angela di Mondello, sì. Mondello. Non ce n'è Covid, però se ci pensi è ragionevole, in una nazione completamente chiusa al mondo esterno è difficile farci arrivare il Covid se non ci pensano i cinesi, ecco. Non... Sì. Tra l'altro leggevo però sull'ercio che Kim Jong-un riceve letterina da un bambino di 5 anni e lo fa giustiziare. Sì. Nella letterina chiedeva di essere giustiziato, evidentemente. Esatto, era il regalo di Natale. Un leader giusto fa queste cose. No, se questo vero, raramente, di solito l'ercio ci sono solo i titoli, questo c'è proprio l'articolo, però vabbè, non sto qui a leggerlo. Scusate, ma tutta quella storia della transizione verso la sorella, del maggior ruolo delle donne nel governo nordcoreano, è una di quelle cose finite così, buttate lì. Perché, ripeto, cioè quella con i tacchi a spillo e una frusta in mano ci stava un amore. Io dico sempre, ragazzi, un giorno noi faremo tutti un raduno a Monterotondo e vi porteremo a mangiare. No, vi porteremo però a mangiare il sushi dalla sosia della sorella di Kim Jong. Porca puttana, veramente c'avete questo. Marco, tu che dici? Dico che è una battuta molto razzista, perché, ma perché non ci assomiglia, tutte quante le asiatiche sono uguali, è veramente terribile, insomma. Cioè. No, nel frattempo Peppe Rizzard mi ha passato in chat privata su Telegram, evidentemente non lo sapevo questa cosa, notizia del Fatto Quotidiano del 16, quindi proprio di oggi. Kim Jong ricompare in pubblico dopo 25 giorni e ha dichiarato: abbiamo evitato l'invasione del virus maligno. Attenzione. Vabbè, ragazzi, allora noi oggi siamo arrivati a metà puntata. Io a questo punto vorrei che nuovamente Francesco prendesse la parola, perché abbiamo un contributo da farvi ascoltare, però vorrei che lo introducesse Francesco. Sì, un contributo da parte del vicepresidente della cooperativa di cui faccio parte, di cui sono socio, Alessandro Patroncini. E diciamo che proprio quando stamattina Simone ha condotto Buongiorno un cazzo, era proprio un buongiorno da Buongiorno un cazzo. Prima mia nonna che passa a miglior morte. Ci ironizzo su sta cosa, però in realtà voglio bene. Poi sta cosa, e poi io direi di far passare sto contributo, perché è una richiesta non di aiuto, però almeno di... Non è una richiesta disperata d'aiuto, però se potete fare qualcosa vi ringrazieremo enormemente. Dico che si può far passare il contributo. Buonasera a tutti e grazie a Runtime Radio per l'ospitalità. Il mio nome è Alessandro Patroncini e vi sto parlando da Reggio Emilia, come forse si potrà un po' individuare dall'accento. E sono vicepresidente di una cooperativa sociale che si chiama Rigenera. Una cooperativa sociale che Francesco conosce, essendo un socio e un nostro collaboratore, e che anche Simone e Michele hanno avuto modo di incrociare tra Reggio Emilia e altri luoghi della penisola. Purtroppo stasera avreste dovuto ascoltare la voce molto più suadente della nostra presidente Alice Grazioli, che però non è riuscita a registrare un intervento e quindi mi ha chiesto di poterlo fare al suo posto. Non ha lo stesso effetto, me ne rendo conto, ma tant'è. A parte gli scherzi, vorrei cogliere questa occasione, questa opportunità per spiegarvi un po' quello che facciamo, soprattutto in un momento come l'attuale, nel quale sicuramente la vita un po' di tutti è stravolta, la vita di chi ha situazioni di disagio lo è ancora di più, e chi lavora nel mondo del no profit, nel cosiddetto terzo settore, come dire, si trova a fronteggiare, come tutti del resto, situazioni le più varie, le più diverse. Rigenera è una cooperativa che è nata soltanto nel 2018, quindi siamo una cooperativa giovane, una cooperativa che si è impegnata prevalentemente in progetti finalizzati all'inclusione lavorativa e alla promozione dell'autonomia delle persone con disabilità, quindi fondamentalmente noi disponiamo di un laboratorio di assemblaggio dove offriamo ad una ventina di tirocinanti un ambiente lavorativo che sia attento alla manualità che alla socialità. La nostra cooperativa si occupa di servizi ricreativi, educativi, attività laboratoriali, tutte finalizzate a favorire l'autonomia di persone con disabilità. Ci occupiamo di progetti di prossimità a livello proprio di comunità locale e diciamo un po' l'ultima arrivata, ma un aspetto al quale stiamo dedicando parecchia, parecchia attenzione è la bottega di Rigenera. La bottega di Rigenera è uno spazio dove si possono acquistare prodotti enogastronomici locali, quindi della zona emiliana, dell'Appennino reggiano, provenienti da altre cooperative sociali in rete con noi, oggetti di artigianati, del regale, bomboniere, tutte fatte in un'ottica di commercio sostenibile e di riciclo creativo dei materiali. E, tra l'altro, non so se la pubblicità è consentita, ma al limite mi taglierete. Noi abbiamo da poco anche, come si dice, messo online un sito per effettuare lo shop online. Basta andare su Google e ricercare bottega di Rigenera, la bottega di Rigenera. Bene, è terminato, diciamo, l'angolo dello sponsor. Scherzi a parte, in un momento come l'attuale, tra l'altro, come dire, è molto complicato riuscire a tenere insieme tante esigenze diverse, lo è sempre, lo è ancora di più, ripeto, in questo periodo. Dico anche fosse una banalità, ma a volte le banalità sono importanti da ribadire. Tra l'altro, vi racconto un po' anche una cosa che poi è stata, come dire, il là per questo tipo di intervento. Oggi la nostra cooperativa, che si trova in una zona della prima periferia di Reggio, insomma, siamo abbastanza vicini al centro storico, tutto sommato, ha subito un furto, e questo furto è il secondo che subiamo da agosto. Oltre del denaro, sono stati fatti danni alla porta d'ingresso, c'è stato rubato un telefono cellulare, sono stati rubati molti materiali che utilizziamo per le nostre attività con i nostri utenti. Come se non bastasse, hanno avuto la bellissima idea di lasciare aperta l'acqua del bagno per arrecare ancora più danno. Ora, non sono qua a fare appelli ai ladri, perché non credo che i ladri stiano ascoltando questa trasmissione, ma, come dire, in questa fase, in modo molto onesto e sincero, noi stiamo facendo un po' un appello a chi vuole, ovviamente, a chi si sente di volerlo fare, a darci una mano. Noi vogliamo acquistare un sistema di allarme per poter mettere in sicurezza i nostri locali. Il nostro sistema di allarme, questo sistema di allarme ha dei costi che in questo momento, visto le numerosissime spese che dobbiamo affrontare, anche per tutto ciò che riguarda la messa a norma nelle misure anti-Covid, eccetera, ci è abbastanza complicato sostenere. Per cui abbiamo necessità, però, insomma, di dotarci di questo sistema di allarme. E così, chi volesse farlo attraverso un'erogazione liberale sarà il benvenuto, e lo ringraziamo fin da ora. Niente, io ho abusato ampiamente dello spazio che mi è stato concesso, mi era stato detto 2 o 3 minuti, ma sono quasi a 6. Tuttavia io vorrei ringraziare ancora a nome mio, a nome della Presidente Alice Grazioli e di tutta la cooperativa, Runtime Radio, per questa opportunità che ci ha dato. Grazie e buona serata a tutti. E rieccoci, è stato veramente un piacere dedicare questo piccolo spazio alla cooperativa della quale lo stesso Francesco fa parte, perché insomma, quando in un momento poi così difficile di suo piove sul bagnato e succedono questi momenti di difficoltà, superato il momento di rabbia e di incredulità, cerchiamo, per quanto possibile, di rimboccarci un pochino tutti quanti le maniche, e se possiamo dare una mano in uno dei modi che lo stesso vicepresidente della cooperativa ci ha appena raccontato, veramente a nome anche di Runtime Radio ve ne saremo tutti quanti piuttosto grati. Francesco, vuoi aggiungere qualcosa ancora? Sì, giusto pochissime cose. Io di persona, diciamo, sono piuttosto individualista, non nel senso che faccio i cazzini, nel senso che mi piace riconoscermi in me stesso, che magari sì, coopero con altra gente, però sono me stesso, diciamo, sono una cellula pi cazzi sua, diciamo, però solo in due entità multiorganiche mi riconosco di far parte e di poter fare di tutto, diciamo, per questa entità, cioè di davvero dare anche il sangue e l'anima. Una è il runtime e un'altra è la cooperativa sociale Rigenere. Per dire una cosa del genere, davvero un qualcosa in cui mi sento di far parte, da parte mia, l'ho detto, premetti, sono molto individualista, vuol dire qualcosa, quindi per dire quanto, diciamo... In realtà il clima è anche simile, diciamo, ma sai, chi si somiglia si piglia. Diciamo che se Runtime fosse una cooperativa sociale sarebbe molto simile a Rigenera, e viceversa, se Rigenera fosse un network di podcast, di trasmissioni, sarebbe un po' Runtime. Io comunque in chat adesso, magari in chat giusto, butto giusto qualche link e qualche riferimento è Liban per le donazioni, se volete fare qualcosa, altrimenti giusto anche solo un saluto, diciamo, in un commento può farci anche piacere. Però sto cazzo di allarme ma lo dobbiamo comprare, perché basta, non se ne può più. Ma prendete un bel pitbull, scusa, che rispetto all'allarme dà più soddisfazioni. Proprio o un pitbull anche. Ti mandiamo un pitbull, che ne pensi? Un pitbull ci può stare, solo che basta che gli dai il ramen una volta a settimana, o il sushi, e te lo ammanzetisci. Poi ti attacca a bestemmia, se no, ma guarda che ci stiamo pensando, perché comunque ci conosciamo un pochino tutti, cioè l'abbiamo conosciuto, li ho fatti conoscere a vicenda, si sono incontrati queste due entità. Quindi, cioè Simone i ladri o no, quello là sarebbe divertente, questa combo. Pensavo. Vabbè ragazzi, facciamo una cosa. Oggi, ripeto, non c'è una scaletta particolarmente variegata, per cui intanto chiedo agli altri se c'è ancora qualche tema che volete approfondire prima di passare alla... Ma io direi di parlare velocemente del signor Trump, che adesso ancora presidente. Che non parliamo del signor ragazzi, Trump, che non so se avete notato, si è praticamente ha smesso di tingersi di arancione. Secondo me lo fa perché vuole essere scambiato per Biden alla Casa Bianca, così non lo cacciano. Domani si pettina lì dietro. No, davvero, una cosa impressionante. Ho questi capelli grigi, ma l'avesse fatto anni fa, insomma, non avrebbe fatto un soldo di danno probabilmente. E, però niente, la situazione è che lui continua a negare di aver perso, continua a dire di essere lui il legittimo vincitore delle elezioni, malgrado i ricorsi. Sta creando anche dei problemi a Snyder, cioè, perché... Le quote, sì. Certo. Sì, perché praticamente tutti quelli che hanno votato Trump per quanto riguarda, come vincitore delle elezioni in Italia, quindi con le quote SNAI, stanno scrivendo alla SNAI chiedendo l'annullamento praticamente della... Sì, perché si sentono frodati. Visto che ci sono un sacco di ricorsi. Guarda Marco, ne abbiamo ragazzi parlato la settimana scorsa, c'era, comunque, di questa notizia proprio durante OGM, tant'è che, se non sbaglio, io ho proprio dichiarato, io odio profondamente i giochi di scommesse, però questa volta se SNAI vincesse soldi facili ne sarei anche contento, perché c'è chi si fa odiare ben più di loro, quindi dai, come dire, hai voluto scommettere, adesso hai perso, basta, cioè non è che ti puoi attaccare a speculazioni, la quota l'hai piazzata, l'esito è piuttosto ufficiale, diciamo che puoi provare a fare tutti i tentativi che vuoi, ma questi soldi ormai li hai persi. Sì. In una parola, stacce. Stacce, esattamente come Trump, del resto, che non ci vuole stare, però vedo che i ricorsi che hanno provato a portare avanti in più stati, uno alla volta, stanno tornando tutti al mittente. Sì, ce n'è uno particolarmente degno di nota, in cui l'avvocato che sosteneva la causa l'ha presentata. Ha capito che gliel'avrebbero bocciata perché non c'erano elementi oggettivi di riscontro, l'ha ritirata e ha tenuto una conferenza stampa specificando che le prove ce l'ha ma non poteva presentarle in questo momento e che riproporrà la causa più avanti con nuove prove. Quella è un'altra storia. Se ci state, fate un attimo mente locale, questa in South Park si chiama difesa Ciubecca. Difesa Ciubecca. Io mi dico, appena... fa un walkie alto 2 metri su un pianeta con degli esserini piccolini. Non ha senso. Esattamente, io vi giuro, l'ho guardato e fa ok, ho capito questo dove ha preso la linea di difesa, è meraviglioso. Invece Giuliani, che dice che c'ha le prove ma non le può presentare, arriva secondo. Esatto. Io sostengo che le abbia conservate insieme al laptop del figlio di Biden, che è misteriosamente scomparso all'indomani delle elezioni. In realtà c'è stata una trasmissione della Fox, quella con l'altro tipo arancione di cui in questo momento mi sfugge il nome, quello che quando lo denunciano Fox va in tribunale e dice no, ma lui non è un giornalista, fa un programma di intrattenimento, la gente lo sa, quindi può dire le cazzate che vuole. Ha sostenuto che in realtà Giuliani l'aveva spedito per posta, credeteci, alla Fox, e pare che nel trasporto questo misterioso portatile sia andato smarrito. Quindi, cioè, tu hai le prove di un coinvolgimento un di un politico, o comunque di un familiare di un politico in corsa per la Casa Bianca in affari loschi, e cosa fai invece di metterlo agli atti per utilizzi processuali eccetera, lo spedisci ad una televisione per fare un'inchiesta giornalistica, non mi torna. Ma non è solo quello. Fox disse chiaramente che loro, perché in realtà, come vi posso dire, esistono livelli dell'abisso a cui nemmeno Fox arriva. Ce ne stiamo accorgendo, insomma, in questa settimana. La redazione della Fox disse chiaramente che loro quel portatile non l'avevano visto, che nessuno aveva avuto modo di verificare che quello che Giuliani stava sostenendo fosse vero o falso. In realtà c'è stato un solo network che si chiama OAN, che è quello Network, sì. Che è quello praticamente dove, se andate a vedere la lista dei giornalisti, praticamente sembra, che vi posso dire, l'annuario del partito nazista tedesco. Sono tutti biondi, bianchi, con gli occhi azzurri. Sì, sì, è una situazione abbastanza palese. Che sosteneva di aver verificato il contenuto di questo laptop, poi non si è saputo più niente, di aver trovato addirittura materiale a sfondo pornografico con uno che poteva essere un minorenne americano. Ovviamente, finite le elezioni, sparito tutto. Nessuno ha più fatto riferimento a questa storia, nemmeno per sbaglio. Tra l'altro, OAN, che è in predica, cioè si dice potrebbe essere il nuovo giocattolo di Trump quando uscirà dalla Casa Bianca. Sì, non si capisce se se la vuole comprare. Si mormora che, essendo rimasto deluso dall'atteggiamento di Fox, potrebbe addirittura provare a comprare OAN per rilanciarla come strumento di autopropaganda. Volevo rispondere a Peppe Rizzard, che dice: ma Giuliani non è mica avvocato? E no, certo che è avvocato, ed è anche ex procuratore di Stato, ed è anche l'avvocato di Trump. Per quello è assolutamente grottesca questa cosa. Nessun avvocato sano di mente, avendo in mano delle prove su una vicenda così importante e così strategica, spedirebbe queste prove ad un'emittente televisiva, neanche per utilizzarle a proprio favore. Però sei un mentecatto, non sei probabilmente stiamo anche parlando di quello che ha fatto il comizio nel parcheggio di una ditta di giardinaggio. Lui ci si è ritrovato suo malgrado, lì la colpa è di qualcun altro, insomma, o il merito, come lo vogliamo attribuire. Però questa cosa passerà alla storia, veramente è qualcosa di notevole e devastante. Purtroppo il momento era talmente concitato che non c'è stata occasione di scherzarci a sufficienza su, ma è una delle storie più ridicole, che credo che a bocce ferme verranno ripescate e riutilizzate da Saturday Night Live in poi per decenni. Si dice che addirittura già in lavorazione un film su questa cosa. Sarebbe il caso. Di Saturday Night Live e di comici. C'è Alec Baldwin, che è uno dei fan di Trump, che ha lanciato su Twitter... ha lanciato su Twitter un messaggio di pace, che cita seppellite Trump in un cimitero nazista e mettete una svastica sulla sua tomba. Quindi una cosa molto tranquilla, molto amichevole. Parole di... Ma da vivo? Io non ho capito, lui intende da vivo o da morto? Non lo so. Non fa molta differenza. Basta seppellirlo. Sarebbe il caso, insomma. Poi ha concluso con: la maggioranza degli americani ha fatto la scelta giusta, Trump è un maniaco. Quindi no, sempre amichevolmente, però già a settembre aveva detto una frase un po' più pacata: cacciamo questa puttana fascista dalle nostre vite. Ragazzi, un grande, che a Trump gli vuole tanto bene. Tanto bene. Baldwin, che dicono? Che poi lì sono una casta, una stirpe un po' strana, anche Baldwin, Tantini. Mi ricordo sì. South Park con i Baldwin. Sai, ci siamo, io sono Baldwin. Il Canada ha bombardato i Baldwin. Esatto. Maledetti. Tra l'altro, Lizard ci ricorda che Alec Baldwin, proprio in Saturday Night Live, interpreta Trump e dice meglio dell'originale. Quindi, evidentemente, insomma, certo. Beh, un po' devo dire che ad Alec Baldwin il physique du rôle gli è venuto con gli anni, perché veramente è diventato una specie di parallelepipedo, cioè quasi un cubo. Sì, un po' come Russell Crowe. Eh sì. E vabbè, ragazzi, dicevo, vogliamo passare al momento fantascienza che a noi piace tanto. E visto e considerato che, insomma, bene o male la nostra ora oggi è la settimana delle guest star nei film di fantascienza, nei telefilm di fantascienza. Guarda, e allora adesso ne parliamo, però fammi mettere il dovuto sottofondo. Ebbene, ormai da un paio di puntate abbiamo deciso di cambiare la routine, ci becchiamo la background music, o meglio, la musica dei titoli di coda, non più di Discovery, ma questa volta del Mandaloriano, che è veramente epica, mi piace, devo dire, nella sua semplicità, questa fanfara con questi tamburi mi piace veramente tanto. Iniziamo a parlare dell'episodio del Mandaloriano di venerdì e poi passiamo a Discovery, o preferite invertire? È già passata la sigla. Vabbè, dai. Ormai. Vabbè, siamo già in una galassia lontana, restiamoci un attimo. Allora, che ve ne dite? È un episodio breve, perché come al solito la durata degli episodi del Mandaloriano oscilla tra i 35, 40 minuti, 42. Quella di venerdì scorso è stata una delle più brevi, credo intorno ai 35, ecco, un minuto più, un minuto meno, però sono stati piuttosto gratificanti. Che ne pensate? Abbastanza, sì. Mi è piaciuto. Molto bello, sì, e soprattutto anche si sta facendo anche una quadra dal punto di vista narrativo, che è sempre quello lì, non meno curato, ma semplicemente curato in quel modo in cui non si dà tanto peso, diciamo, dal punto di vista narrativo, che non è necessariamente un difetto, anzi per com'è il Mandaloriano per me funziona bene, però sta abbracciando un pochino la lore a 360 quadri di tutto Star Trek, perché comunque ci sono dei personaggi di riferimenti a delle cose riferite ad altre serie, ad altre cose che sono canoniche però non sono presenti nei film. Io sta cosa, devo dire la verità, mi sono aggiornato leggendo su internet, non perché ho visto Clone Wars oppure sono questo grande espertone della lore Star Trek. Io te l'avevo io però te avevo fatto l'offerta che non si può rifiutare in chat. Eh sì, me l'hai fatta, però diamo tempo al tempo, vabbè. Prima o poi. Comunque, se non sbaglio, molti riferimenti, tra l'altro in particolare all'ultimo episodio che abbiamo visto, si riallacciano in Star Wars Rebels, giusto, Carmine? Sì. No, allora si riallacciano in parte a Clone Wars e in parte a Rebels, perché la bella mandaloriana interpretata da Katie Sackhoff, già Starbucks in Katie Sackhoff, perché si pronuncia così, esatto, il suo cognome, Bo-Katan, Bo-Katan. Nonché Kate Botox, perché veramente Star Botox, perché ragazzi, imbarazzante, veramente imbarazzante. C'è stato peggio, zigomi rigidi, sorriso quasi da emiparesi, non lo so, io sono rimasto veramente, cioè, o è male. Botox o è Photoshop, dobbiamo capire. Tutte e due. Insomma, Bo-Katan, Botox Shop, dai, cioè. Botox Shop. Sì. Cioè, Bo-Katan è un personaggio che si vede, che compare la prima volta in realtà in Clone Wars e poi ha un ruolo più interessante in realtà in Rebels. È una mandaloriana, è la sorella dell'ex reggente di Mandalore, che aveva un carattere completamente diverso, che tra l'altro era innamorata persa di Obi-Wan Kenobi, che però purtroppo aveva fatto voto di celibato. Successivamente è stata prima leader di un gruppo, diciamo così, oltranzista, che poi è lo stesso che vediamo in questo momento, contrario all'impero, e la vediamo in quel ruolo in Rebels, mentre cerca di riprendere Mandalore dalle mani di Darth Maul, che nel frattempo è diventato tipo il boss camorrista a capo dello spazio, e ha, diciamo, preso casa su Mandalore. Bo-Katan è stata la principale nemesi di Darth Maul, ha cercato di riprendere il ruolo che era quello della sorella, e si è poi opposta, da quello che ho capito dai romanzi espansi, perché viene solo citata come cosa, anche all'avvento del Primo Ordine. L'abbiamo ritrovata adesso. Una cosa interessante è che Bo-Katan è la persona, l'ultima che abbiamo visto in Rebels, ad avere la spada nera che abbiamo visto nelle mani del personaggio di Giancarlo Esposito alla fine della prima stagione del Mandaloriano. Quindi c'è un link, oltre a quello che abbiamo visto, tra quel personaggio e il personaggio di Katie Sackhoff. La Carne al Fuoco non è poca per essere una serie, c'è, anche c'è questa parecchio. Breve, con episodi brevi, però tutto focalizzato e centrato su, comunque, sulla quest principale del nostro protagonista Mando, che deve riportare a casa quello che continuiamo a chiamare Baby Yoda. Un giorno gli daremo anche un altro nome, chi lo sa? I bimbi. È la prossima puntata, manca un po' la forma di bimbi. Oddio, ho le orecchie. Dovremmo vedere un attimo la prossima puntata, visto che pare che comparirà Ahsoka Tano. Rosario Dawson. Non è certissima, cioè al 90% è lei, per carità. Tra l'altro, se la guardi, le somiglia pure. Però, vedremo la settimana prossima. Lei. Comunque, si parlava della puntata delle guest star, perché ce n'erano svariate in questa puntata di personaggi e di attori da citare, giusto? Oltre ovviamente a Katie Sackhoff, che era palese, perché la prima cosa che fa alla seconda scena levarsi qui appare l'elmo, tanto da lasciare sgomento il nostro Mandaloriano. Dice: ma come? Ma non si toglie mai, ciccio? Ma dove tu sei un neocatecumenale, come non si togli? Cioè, proprio, vabbè, così sfregiando anni di devozione al culto. Vabbè, comunque, insomma, gli altri quali sono? Li avete riconosciuti? Li avete individuati qualcuno? C'avevo, cioè, la lista, non me la sto trovando. Con la lista. Bu. A parte che appare in una frazione di scena ancora, sì. Giancarlo Esposito. Vabbè, in realtà è ologrammatico. Esatto. Lui non è una guest star, lui ci sta, perché lui è il cattivo. La nemesi. Infatti. Lui è l'ennesimo Gustavo Fring che gli fanno fare anche a Star Wars. Vabbè, ma all'espressione lui è un caratterista, ha quell'espressione che deve fare sempre questi ruoli particolarmente ambigui, no? Cioè, la faccia del buono di sicuro non ce l'ha. Poi simpatico. Ti dirò che invece una faccia da buono ce l'ha, se vuole, perché è una faccia seria, molto dura, uomo d'affari, esatto, non necessariamente però maruvaggio, secondo de come lo metti, secondo vabbè, me il potrebbe Tony fare, potrebbe fare anche una parte anche parti positive con quella faccia, volendo. Beh, anche quando Gus Fring fingeva di essere un uomo d'affari filantropo, in effetti sì, era credibile, miliardario per il boy filantropo, proprio filantropo, esatto. Tutto quello che noi sapevamo accadere dietro te lo faceva rivalutare, però quando usava la tecnica dell'uomo pacato, cioè passava inosservato, ecco, in maniera tale da non dare nell'occhio, sì, tranne l'avvelenamento di massa dei boss del cartello, eh sì, esatto, Preco? No, diceva... poi è stata bella l'avvelenamento di massa. Sì. Qua anche lui che va a prendere la dose di antidoto all'ultimo secondo. Sì, no, ma poi quando metodicamente si fica due dita in gola. Sì, esatto. Metodicamente all'asciugamano si siede sì. a capa del cesso e si ficca metodicamente le dita in gola. Comunque, insomma, per riprendere il concetto delle guest star, un'altra che cito volentieri perché a me piace molto un suo personaggio da protagonista, che è Bosch, è Titus Welliver, che abbiamo già visto in varie serie e film in passato, ad esempio credo che sia apparso in Lost, se non ricordo male, e probabilmente abbia fatto qualcos'altro, qualche comparsata anche in Agents of S.H.I.E.L.D., ricordo male? Sì, cioè Io ero sicuro che, siccome poi non viene detto il nome del suo personaggio, io ero sicuro quando è comparso che l'avrebbero chiamato Pelleon, che è il secondo in comando del grande ammiraglio Thrawn, che oltre che essere un personaggio di tre libri molto belli della vecchia continuity, si vede anche in Rebels, è un gran generale dell'impero, l'unico alieno tra l'altro, che ha un luogotenente umano che viene descritto esattamente come lui. Difatti quando è comparso in scena ho fatto vai, ma diranno che è l'assistente di Thrawn, invece no, l'hanno lasciato anonimo. Anche perché finisce per fare il kamikaze. Se ce l'hanno folgorato, esatto. E poi vabbè, insomma, altri guest star che possiamo citare in maniera palese per noi non ce ne sono, perché sono tutti attori che nell'universo espanso di quello che è la televisione e il cinema americano hanno molta rilevanza e probabilmente da noi in Europa sono meno noti. Però vorrei approfittare per fare il gancio e quindi agganciarmi all'altra serie di cui parliamo sempre volentieri, che è Star Trek Discovery, perché in un episodio che personalmente non è che mi abbia lasciato particolarmente soddisfatto, però a un certo punto spunta la guest star che non ti aspetti. È Davide. È Davide, che non quello di Donatello, però insomma, lui, avete riconosciuto chi è il personaggio, o meglio chi è l'attore che interpreta il personaggio che a un certo punto dialoga con gli occhiali finti che dialoga con la Filippa Giorgio? Il buon David Cronenberg. Tu dici, ma cosa cazzo ci fa Cronenberg invischiato in cose di Star Trek? E che ci fa? È un personaggio anche interessante, tutto sommato, no? Perché succede qualcosa, cerchiamo di non fare troppi spoiler, però ha un lungo dibattito, un lungo confronto, una lunga interlocuzione con Filippa Giorgio, e lei sembra uscirne un po', come dire, provata da questa, per la prima volta, in qualche modo è stata messa, possiamo dire, in difficoltà? Non lo so francamente se sta in difficoltà. Mi domanda alla fine perché stava fissa. Appunto, già. Qualcosa è successo. Lo capiremo magari nei sarà prossimi episodi. Sarà successo davvero tutto quello che è successo o era nella sua testa? Chi lo sa. Tenete presente che questi hanno 1000 anni di esperienza più di lei nel trattare con, da quello che si è capito, le incursioni nell'universo specchio ce ne sono state altre nel corso di questi 1000 anni di cui non sappiamo nulla. In realtà però dicono che a un certo punto si sono smesso. Disallineate le due parallele. Le realtà che non ci sono stati più contatti. Al di là delle incursioni dei due universi, c'è da dire che la Giorgio ha comunque una dote naturale che va oltre, la campionessa di certi atteggiamenti, al di là del venire dall'universo specchio, è qualcosa che in lei è innata, che supera anche il normale livello di sofisticazione, il normale livello di teatralità, nel senso che lei comunque riesce a fare delle cose e riesce a ribaltare con la dialettica, oltre che poi con le ganasse, come direbbe Simone Pizzi, delle situazioni improbabili. È proprio una, tant'è che riesce a, bene o male, a tenere testa anche a questo personaggio, che tutto sommato è un personaggio difficile da gestire, perché forse per una volta più imprevedibile di lei. Sì, ma che più che altro sembra non temerla, cioè preparato a quello che sta affrontando. Per quello ho la strana sensazione che andando più avanti nella trama ci saranno altri riferimenti all'universo specchio, perché onestamente sembra conoscerne le caratteristiche degli abitanti fin troppo bene. Sì, è vero, di non sta lì a caso. Lui, detto, lui li ha studiati a lungo, insomma, quindi è un appassionato di universo specchio. Tra l'altro pare che Cronenberg viva vicino agli studios dove viene registrato Discovery e che abbia comunque dato la disponibilità per tornare in altri episodi. Secondo me ce lo ritroviamo di nuovo. Beh, non credo che sia un cameo fino a se stesso, sarebbe un peccato, perché quel personaggio deve avere uno sviluppo, altrimenti che senso c'ha? Invece volevo dire, io mi sono domandato, mi sono dato la mia risposta, poi chiedo il vostro parere, il perché della trasformazione, del peggioramento delle entità olografiche, visto che siamo 1000 anni nel futuro rispetto a tecnologie che avevamo già visto ad esempio per la prima volta in Voyager, in cui appariva il dottore olografico di emergenza. Abbiamo visto che 1000 anni nel futuro gli ologrammi sono più stupidi, passatemi il termine, di quanto non lo fossero nelle serie canoniche precedenti, e quantomeno anche meno raffinati, nel senso che ne riconosci alcuni connotati in maniera plateale. Io mi sono dato una spiegazione, ditemi se vi convince, e cioè il fatto che siccome fra mille anni in avanti rispetto a quello che eravamo abituati a vedere, la tecnologia di queste intelligenze artificiali e anche le tecnologie di proiezione olografica saranno così tanto raffinate che gli abbiano voluto dare un meccanismo che permette all'interlocutore di distinguere immediatamente il fatto di avere a che fare con un'entità artificiale e non con un individuo reale, perché altrimenti questo salto indietro nella loro rappresentazione tecnologica non avrebbe nessun senso. Guarda, ci ho pensato anche io dell'idea che avevo di base, però il problema è che secondo me semplicisticamente gli andava di fare una cosa del genere, cioè, può essere. Purtroppo penso che mettiamoci le voci robotiche, vai, sì, vai, no, quello pure. In realtà l'idea che avevo avuto io è completamente opposta, cioè pensavo, noi in Picard abbiamo visto che a un certo punto della storia diciamo la federazione non sarà esattamente propensa ad accettare il concetto di intelligenza artificiale autocosciente. Non so se da quel momento in poi ci siano dei proprio di Picard, ma secondo voi ci saranno androidi? È quello il punto, cioè secondo me dopo l'evento Picard non so la federazione quanto abbia spinto sulle intelligenze artificiali, e il fatto che queste intelligenze artificiali ci sembrano più stupide del dottore olografico di emergenza, del dottor Picardo, perché mi ricordo Robert bene Picardo. Robert Picardo l'attore, sì. Può essere una cosa voluta, nel senso che abbiamo voluto mantenere un livello più basso per evitare che possano svilupparsi. In realtà gli dice, non so se proprio l'omino David Cronin, gli dice le IA si sono sviluppate molto da quando gli dice come, guarda, lo so, cioè, non fa lo Ma è per quello che io ho portato avanti la tesi che dicevo poco fa, perché se tu dichiari ed enfatizzi in maniera così esplicita che le IA si sono evolute e poi me le mostri tecnologicamente inferiori a gente che viene da prima degli ologrammi, quindi cioè, ovvio, no, degli ologrammi intelligenti, autosenzienti, perché vabbè, comunque però ragazzi, scusate, attenzione, perché Peppe Izzard ci lancia così la sua tesi, e probabilmente è molto interessante, perché dice Picard è nell'universo canonico, Discovery probabilmente sta in un universo salcazzo. Questa non è una tesi da buttare. Non sono sicurissimo questa cosa. No, nessuno di noi è sicuro, però potrebbe anche venire fuori e probabilmente avrebbe anche un senso. Perché nella... due diversi tre linee temporali, perché la prima era quella dell'origine, la seconda è quella dell'intero specchio e la terza è quella dove stanno in quel momento. Quindi in realtà quando David Cronenberg dice che ha visto in tre linee temporali differenti è perché sono le due linee di quella canon sono comunque spezzate, cioè un buco di 900 anni e mezzo. No, quello mi sta bene, però il fatto che loro debbano essere nell'universo che noi chiamiamo canonico e non... Anzi, non c'è più neanche solo un universo specchio, probabilmente c'è un multiverso. Basterà vedere Vulcano. Cosa che tanto ormai col motore a spore saltano dove vogliono, quando vogliono, a me sta cosa quanto non mi piace. Lo so, ma quello è il fulcro di Discovery. Cioè, lo so, però in realtà era un fulcro che avevano voluto gradualmente abbandonare nella seconda stagione, e nessuno li obbligava a riprenderlo una volta. Adesso non hanno più necessità di nasconderlo, stanno mille anni nel futuro, sti cazzi. Sono d'accordo, però è anche vero che le trame che si sviluppano così, con loro che schioccando le dita vanno a finire dove vogliono con un solo salto, una sola piruetta all'astronave, è un modo di fare sceneggiatura di 30 anni fa. Ma l'altra soluzione è coloro che fanno i viaggi dei 18 mesi per arrivare di 3 anni per arrivare dietro casa, esatto. Quindi capisci che insomma era anche impossibile. Potevano creare delle trame un pochino più circoscritte, non dovevano necessariamente... Salutiamo Marble Madness che arriva tardi ma arriva, ciao bello. E dai, dicevo, non è che devi per forza farmi fare il salto da... È successo, vedo. Quindi se stai nello stesso posto non te puoi muovere, ciao. Cioè, finito Discovery. Beh, in realtà potevano estendere delle trame. Ad esempio, mi faccio una domanda. Perché Marble Madness chiede Marco Gualdi? Non so, Marco Gualdi sta appena parlando. Dicevo, per esempio, a inizio stagione si è introdotto questo nuovo personaggio, Book. Pareva anche un personaggio interessante. Anche, buongiorno un cazzo. Esatto, anche divertente nel suo dualismo con Michael Burnham. A un certo punto prende e sparisce, poi magari tornerà negli episodi successivi, non lo so. Però diciamo, come l'hanno introdotto, l'hanno fatto sparire, ci hanno messo poco. Come te creo, te distruggo. Francamente, non lo so. Io ho un po' paura, l'ho detto nei nostri gruppi privati, ho un po' paura della troppa carne al fuoco che vedo mettere episodio dopo episodio, considerando che comunque è una serie da quanto? Da 12, da 14, adesso non ricordo quanti sono gli episodi previsti per la stagione, però a differenza del Mandaloriano, che comunque è una quest centrale che rimane il focus di tutta la narrazione, qui ogni puntata ci si concentra su un personaggio e su alcuni eventi legati a un personaggio diversi tra loro, e che poi si dovranno raccordare tutti alla fine. Come al solito, ho paura che il risultato sarà metterci delle pezze l'ultima ora dell'ultimo episodio. Ma io credo, perché tu credi che in questa stagione chiuderanno tutti quanti? Secondo me non chiudono un cazzo questa stagione. No, c'è già la quarta in lavorazione. No, che la quarta verrà fatta, sì, lo sappiamo, però ti spieghi che capiranno a grandi linee che cosa è questo grande fuoco, ma poi probabilmente da lì partirà tutta un'altra cosa, cioè non risolvono un cazzo quest'anno, secondo me. Peppe dice: gli sceneggiatori di Discovery vengono da Beautiful, e per me non ha proprio tutti i torti. Lo so. Devo dire che io ho lasciato la seconda stagione con una certa con un certo entusiasmo. Mi era piaciuta molto, malgrado giocassero col fuoco, perché avevano tirato in ballo l'Enterprise, avevano tirato in ballo Pike, hanno tirato in ballo addirittura Spock. Però nel complesso è venuta fuori una cosa gradevole, che ha anche emozionato abbastanza. Invece questa terza stagione a me non sta molto piacendo, non mi sta appassionando come le precedenti. E proprio perché trovo che lo stile narrativo che è stato scelto sia un po' anacronistico, cioè si è scelto di tornare a fare sceneggiature di troppo tempo fa, applicate a un contesto che però nelle due stagioni precedenti ci aveva mostrato dell'altro, quindi a me sembra un passo indietro. Poi, per carità, è solo l'opinione personale. Oppure sono vecchie meccaniche applicate a un nuovo contesto, tutto sommato è anche abbastanza, non dico sperimentale sotto certi punti di vista, per essere Star Trek, però... No, per carità, io non ho nulla da discutere dal meccanismo dei plot autoconclusivi episodio per episodio, ad alcuni connotati che sono parte fondante della storia di Star Trek, quindi l'equipaggio che sbarca su una missione a terra piuttosto che su un avamposto, che conosce i personaggi di quell'episodio e li si conclude. Quello è uno stereotipo di Star Trek che fa anche piacere ritrovare. Però, che ne so, c'è qualcosa che non mi torna. Ripeto, dopo aver dato il là ad una serie di possibilità di trama nelle stagioni scorse, e alludiamo a tutta la trama della prima stagione con l'avvento di L'Rell dei Klingon, con la seconda stagione con l'avvento dell'Enterprise Control. Di Pike, con Controllo, con la stazione 31, tutte queste cose sembrano quasi essere state in qualche modo messe da parte per un utilizzo estemporaneo, come dice Peppe, di Pike è pronto lo spin-off, e anche con Rebeccona Romijn a fare da numero uno, e quella potrebbe essere una soluzione per tornare al canonico, cioè ti faccio una serie Star Trekiana a bordo dell'Enterprise come piace allo spettatore classico, e magari me la risolvo così. Però nel frattempo la terza piega che ha preso nella terza stagione Discovery, secondo me non è convincente come potrebbe, però ma vedremo, tutto sommato praticamente a metà stagione, vabbè, e si pastura, capito? Vediamo. Si pastura, sì. E ci sono ancora delle trame legate a singoli personaggi che dobbiamo ancora approfondire. Ad esempio, dovranno diventare oggetto di una delle prossimissime puntate, te suppongo, i malesseri del pilota. Mi scordo sempre lei come si chiama. Detmer. Ok, che ogni episodio comincia ad avere, esatto, disturbi sempre più accentuati. Notati anche da Washegun, che cerca sempre di farla tornare in sé quando svalvola. Riuscendoci, così. Tra l'altro. Eh sì, per adesso, fino adesso riuscendoci, però ho come l'impressione che in uno dei prossimi episodi ci vorranno gli schiaffoni per non andare a sbattere, però, insomma. Ho un nuovo pilota, scelto. Ma chissà, chi può dirlo. Tanto hanno buttato accesso Nanna, cioè. Sì. Una più una meno. Cioè, capito, se ma vedi che roba, porti a fare? Cioè. Se allora, vedi protesi sull'Enterprise. Se vedi protesi bioniche, inizia a preoccuparti. Sono le nuove magliette rosse. Eh sì, è vero, è vero. Non no, c'è più la tutina rossa. A me viene il sospetto che se Detmer viene messa in bench, in panchina per qualche motivo, è il sistema per introdurre Buck come pilota. Perché tutto sommato ha dimostrato di saperci fare Buck come pilota. Vediamo. Non lo so, secondo me Buck ci avrà la sua sottotrama, perché lui è il dubito della situazione. Aggiungere romantica. Tornerà a dare due colpetti alla povera Michael e poi, insomma, ci lascerà. Lo speriamo sia per lui che per lei, tutto sommato. Io quando si tromba sono sempre contento, soprattutto nello spazio. Dice Rizzard, scusate, che Detmer non svalvola Frieza perché digitale non è analogica, ma in realtà la digitale ce la siamo già persa. Detmer ha soltanto delle protesi, ma non credo che sia digitale, credo sia assolutamente analogica. Quella digitale faceva proprio i backup, ragazzi. Esattamente. Infatti io dico, esatto, scaricate l'ultimo backup e ripristinatela. Peccato che era un personaggio interessante. Mi dispiace che lo abbiano cassato così. Invece, per esempio, sempre Peppe ci diceva: ridatemi anche l'orca, che era un personaggione. Non lo so. Poi diventa troppo complicato. Troppi personaggi carismatici. L'orca hanno veramente fatto di tutto per farti capire che non tornerà quello dell'universo specchio e che quello dell'universo canonico è proprio morto. Eh sì. Quindi quello dell'universo specchio l'hanno proprio vaporizzato, quindi e quell'altro è finito nell'universo specchio, ma nessuno sa che fine ha fatto. No, viene detto, mi pare, da Giorgio che è morto, che lei aveva trovato il cadavere nella seconda stagione. Vabbè, dovremmo indagare. Oh, nel qual caso speriamo tutti che Draco Malfoy torni nello spazio nelle vesti del capitano Lorca. Vabbè, comunque sta nella migliore delle ipotesi 1000 anni indietro. Quindi. Sì. Chissà quanti. Nella nuova serie con il capitano Pike. Magari potrebbe diventare la sua nemesi, potrebbe diventare il suo avversario o qualcosa del genere, insomma. Vabbè, adesso, ragazzi, se Pike è il meglio che la federazione abbia mai offerto all'universo, ci sta che esista il controaltare, che sia l'orca quello dell'universo, però insomma, ripeto, l'hanno vaporizzato. O sta prigioniero nella rete del micelio dell'universo specchio e trova il sistema di tirarlo fuori, o ciao. E poi dovrebbero introdurre la rete di micelio per derivazione, quindi tutto il concetto del motore a spore anche in altre sottotrame di altre serie, quindi Vabbè, però sai, diciamo che è una tecnologia che in Star Trek serie classica non è mai stata neanche lontanamente citata. Io non credo che si prenderanno questo rischio nell'eventuale spin-off con Pike, perché sarebbe veramente giocare col fuoco, poi ti becchi l'insurrezione di non so quanti fan canonici. Comunque, come ci suggerisce anche Rizzard, l'attrice che faceva Airiam è la stessa che fa bionda di merda, praticamente hanno tolto il trucco prostetico e l'hanno cambiato il personaggio. Fantastico, ragazzi. Fantastico. Non si butta niente, figlio mio. Questo spiega perché a Pizzi questa che cazzo sta a far lì? Perché si vede che c'ha un contratto dei 15 anni e hanno dovuto cambiare personaggio, però sta lì, è sempre. Oppure un'altra tesi che si potrebbe riaffacciare anche a determinate connessioni con l'intelligenza artificiale che ormai infesta, passatemi il termine, la Discovery. Magari a un certo punto tutto torna e si scopre che questo personaggio, che ogni tanto ci mostrano di sfuggita ma non parla mai, non fa mai niente, magari non è soltanto la stessa attrice, magari c'è anche di più. C'è qualcosa che va. Che d'altra parte, insomma, far morire così senza un vero perché un personaggio della crew del ponte, insomma, in Star Trek non succede mai, a meno che non hai problemi di droga come fu successe a Dennis Crosby. Generalmente, insomma, vai avanti, ecco. No, cioè noi sappiamo che i dati della sfera, che quindi sono senzienti, hanno accesso a tutta la Discovery, che in qualche modo abbia voluto preservare una persona che si era sacrificata per difenderla, ci sta. Sì. Boh, vedremo. Vabbè, ne verremo a capo alle prossime puntate, tanto di Discovery quanto di OGM. Detto comunque questo, ragazzi, due cose velocissime. Sì, vai. Quando si è vista la raccolta delle nuove astronavi della Federazione ero oggettivamente commosso, perché comunque l'ho trovata una scena molto evocativa, molto bella, con loro che guardano la nuova versione della Voyager mentre attraccano. Mi è piaciuta tantissimo l'estetica della... Che loro vedono la nuova versione della Voyager non conoscendo la vecchia, perché loro sono... ma anche la Voyager qua, cioè la Voyager che vediamo nella serie Voyager non è la prima a chiamarsi in quella maniera, no. Non ha la lettera sul numero di assegnazione, quindi è la prima. Mi ricordo che la Janeway dice che non è la prima astronave della Federazione a chiamarsi Voyager. No, secondo me non è la prima, non è il primo vasciaro in senso più ampio, ma non è... Aspetta, se la mia tastiera Bluetooth obbedisse... NCC74656J, USS Voyager dovrebbe essere... la ultima. Che ti sto... siamo nella stessa pagina, mi probabilmente sa. Memory Alpha, NCC 74656 è la prima, quella della serie che tutti abbiamo visto, e non ha lettere di suffisso, di conseguenza è la prima. No, J74656J. Sì, è vero, si pensa, c'ho la foto davanti di quella della Genoa. Datasheet. Comunque l'attrice, la prima Ariam, per tornare al mistero di queste attrici che scompaiono e ricompaiono, nella prima stagione Ariam era interpretata dall'attrice che adesso fa la Nils, la biondina. Poi la seconda stagione c'è nata un'altra attrice che si chiama Anna Cheeseman, che l'hanno fatta morire e hanno fatto ritorno all'altra attrice sotto forma di se stessa, praticamente senza protesi, come un altro nome, cioè, quindi hanno fatto un riciclo anche qua. E chi l'avrà data? Chi l'avrà data? Cioè, battute sessiste, ma chissà chi l'avrà data, insomma. Vabbè ragazzi, io continuo a non vedere, io vedo immagini della Voyager su Wikipedia, ma continuo a non vedere lettere dopo la targa, quindi NCC74656. Sto vedendo costruzione e lancio, basta. Cantiere Utopia Planizia, ovviamente. Jay è del 32esimo secolo, è quella del 3189. È quella che si vede in Discovery. Esatto, è la Jay. E no? Probabilmente ce ne sono Discovery, sì, pardon. Una secchiata... tra quella di Genway e quella che abbiamo visto questa venerdì, però quella della Genway è la prima, insomma. Vabbè, pregate Cristo che intanto gli rifacciano il finale di Voyager, che credo sia una delle cose più anticlimatiche che abbia mai visto nella mia vita. Parentesi aperta e chiusa, scusate, mi dovevo levare questo sassolino dalla scarpa. Le navi olografiche? Fighe, ma anche tutto il fatto dell'architettura fluida del quartier generale della Federazione è bellissimo. Sì, diciamo che per cercare di rappresentare un futuro molto anteriore, molto futuro, si sono veramente sprecati in tante soluzioni, anche poi anche inutili a volte. Anche assolutamente meri esercizi di stile che poi non hanno una funzionalità pratica ragionevole, sostenibile, insomma, però dai, tutto sommato ci ha fatto piacere. Vabbè, ragazzi. Ma soprattutto siete contenti che Saru è finalmente diventato capitano a tutti gli effetti? Ma frega il giusto, per carità, se lo merita. Alieno che vediamo. Il primo capitano alieno. Alieno che vediamo in una serie canonica, quindi comunque c'è anche abbastanza, gli hanno tolto la paura, cioè, comunque sono veramente personaggi e storie che stanno proprio creando di stagione in stagione, se non di puntata in puntata, vanno un po' a vista, secondo me. Cioè, hanno rifatto personaggi da capo in 3 secondi proprio perché dicevano: così non ci piace, o lo famo morire o lo cambiamo. Quindi stessa cosa è successa per Pessaro e tanti altri personaggi che veramente c'è proprio una abbiamo visto cambiare tutti i personaggi, ma la stessa Michael Burnham è cambiata tantissimo. Sì, sono state disastrose le prime due puntate delle prime due stagioni. Cioè, la prima stagione i personaggi del ponte non sapevi manco come si chiamavano. Cioè, ragazzi, non si sapeva come il nome. Cioè, a volte non venivano chiamati per nome, quello esatto. Che dovevi andare a vedere su internet. Ma se ci pensi. Aria, ma nella seconda stagione ti dicono che cosa. Nella prima pensavano che era un alieno. Marco, il problema è che in serie così brevi il tempo di approfondire tutti i personaggi non c'è. Le serie canoniche di Star Trek erano composte da 24 episodi a stagione, c'era tutto il tempo di. Allora, c'erano dei personaggi nelle pagine ufficiali, non c'erano nomi. Cioè, questa è una cosa terribile. Cioè, sta cosa che nelle pagine ufficiali non mi ricordo, cioè che non venivano chiamati per nome, sì, me lo ricordo. C'era, ma la stessa Iriam, non si sapeva che razza era, se era umana, se era aliena, non gliene fregava un cazzo neanche di definirla, capito? Cioè, questa è stata... Sti cazzi, beh, non è che non gliene fregasse un cazzo, è che sicuramente molte cose le hanno fatte in corso d'opera. Sì, ma dalla seconda stagione. Anche perché la prima stagione è stata una scommessa, nessuno sapeva se sarebbero andati avanti. Quindi perché dare dei nomi, giustamente? No, ma quello sotto quel punto di vista. No, non sapevi neanche se quello sarebbe rimasto l'equipaggio della nave. Esatto, infatti. Non sapevo neanche se dovevano fare un'antologica, quindi fare la prima stagione e poi magari la seconda facciamo qualche altra cosa. Vabbè, quindi. Comunque il domandone è, i Klingon, ma nel futuro dove stanno, perché non sono ancora venuti fuori e che aspetto avranno quando li vedremo, perché li vedremo, si saranno evoluti di nuovo, ci avranno due creste, boh. Ma chi lo sa, forse c'è una cresta al culo, quella anche da prima, cioè non ho mai fatto vedere Worf di spalle, ma sospetto che dovremmo chiedere a Riker, che pare si sia accoppiato anche con una Klingon. Sì, Riker, basta che respirano. Sì, assolutamente. È l'evoluzione di Kirk. Esatto. Diciamo, è Kirk, ma de bocca più buona, nel senso... È Kirk con meno scrupoli. Esatto. Mamma. Che scena, vabbè ragazzi, che vi devo dire. Vabbè ragazzi, se siete d'accordo, io partirei con la nostra... ronda degli ultimi due minuti di OGM, perché siamo arrivati alle 22:42 e non so voi, io mi andrei anche a riposare l'ugola. Quindi permettetemi, prima di salutare tutti i miei sodali di questa puntata, permettetemi di salutare tutti quelli che ci hanno fatto tanta compagnia questa sera in chat, in ordine di apparizione inverso: Peppe Rizzard, Marble Madness, Alessandro Padroncini, che poi Lobby risaluterà più specificamente, che ci ha ascoltato, Al 9000, Pier G, e c'era anche Cuciniere alle prese anche con Sanremo, poi ci spiegherà, e tutti quelli che pavidamente non ammettono di ascoltarci ogni lunedì. Detto questo, saluto i miei compagni di merenda, i miei sodali, saluto anche Simone Pizzi e Michela De Paola, che oggi hanno fatto, penso, da ascoltatori, e saluto l'altro padrone di casa, Marco Gualdi. Ciao! Saluto il protagonista indiscusso di questa puntata, Francesco Di Muro, Lobby Frontali, che forse vuole chiosare. Ciao, no, volevo solo chiusare ricordando che Polonia e Ungheria hanno posto il veto al recupero dei fan. Grazie. Mortacci loro. E saluto Carmine Puccio Console. Ciao a tutti. E l'appuntamento, amici, quindi ve lo rinnovo, visto che abbiamo ancora 50 secondi di jingle, è per lunedì prossimo, come sempre, a partire dalle 21, speriamo con meno disservizi tecnici, perché in questa stagione ogni volta che mi è toccata la diretta sono riuscito a fare sempre qualche problema. Salveremo tutti i setting e speriamo di ritrovarli lunedì prossimo. Io vi do quindi appuntamento alla prossima settimana con OGM, oscurantisti giuridicamente male informati, a partire dalle 21 live su Spreaker, su runtimeradio.it.